La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione. La regione, sentite le popolazioni interessate, può, con sue leggi, istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. Con l'articolo 133 si chiude il titolo quinto della Costituzione, cioè quella parte dedicata a regioni, province e comuni. E si conclude proprio con il meccanismo con cui si modificano le province. Le province, infatti, possono essere modificate con una legge dello Stato, sentiti i comuni e le regioni interessate. Negli ultimi 10 anni in Italia si è parlato moltissimo di province e se ne è parlato soprattutto con l'idea di doverle abolire o modificare radicalmente. Perché? Perché sul nostro territorio insistono 3 livelli diversi di governo. Regioni, province e comuni, e spesso abbiamo sovrapposizioni, per cui all'inizio di questo decennio si era deciso di eliminare le province e lasciare soltanto regioni e comuni. Ma questa abolizione delle province non è stata assolutamente facile, ed anzi oggi le province sono state piuttosto modificate in enti di secondo livello, cioè enti non elettivi che accorpano i comuni. Ma questo perché? Perché ci si è resi conto che un'organizzazione territoriale non può basarsi solo su regioni troppo lontane e comuni troppo vicini, soprattutto perché oggi è necessario avere degli enti di area vasta, cioè degli enti che mettano in comune alcuni servizi. I trasporti, la viabilità, ma anche la gestione dell'acqua o dei rifiuti non può essere fatta a livello regionale che è troppo ampio, ma neanche a livello comunale che è troppo ristretto. Ecco allora che il dibattito è ancora aperto. Cosa farne delle province? Ma soprattutto in relazione, cosa farne delle regioni o dei comuni? Oggi, a mio avviso, questo è uno dei grandi temi su cui ragionare nel nuovo assetto costituzionale, cioè capire quale deve essere l'organizzazione territoriale dello Stato, in maniera da saper miscelare adeguatamente un livello di governo più ampio e più ristretto.